nuova stagione NBA alle porte e allora noi ricordiamo due debutti importantissimi, due big man, due pivot, ruolo ormai sparito nella pallacanestro odierna. Eh sì, perché il 23 ottobre del 1976 debutta Robert Parish con la maglia dei Golden State Warriors. Eh sì, è stato un Warriors prima di essere un Celtics. E Artis Gilmore, approdata a Chicago dopo una carriera NBA che l'ha consacrato come miglior pivot della storia della Lega. Buongiorno a tutti! Buongiorno a te Paolo, buongiorno a voi amici, amiche sportivi e non sportivi per il Move to Groove odierno, un po' in ritardo, ma sapete quando altri suoni richiede insomma delle playlist un po' più corpose, tante. Beh, altezza mezza bellezza si dice molte volte, non sto tirando l'acqua al mio mulino, capisco che son vanesio, ma non fino a questo punto, tanto più che questa è un'altezza, è una statura assolutamente per i due protagonisti in centimetri o in piedi con la misurazione americana, ma soprattutto è una bellezza cestistica, è una bellezza tecnica, è una bellezza come persone, è una bellezza come esempio. Poi per quanto riguarda l'estetica, non siamo certo un format di moda, fashion. Questa è una bellezza anche tre quarti, anche tutta intera, per quanto riguarda la grande pallacanestro, per quanto riguarda l'esempio, per quanto riguarda l'inserimento all'interno di due franchigie e anche all'inserimento di persone che hanno una stazza fisica notevole, ma altro che i miei 2-4, quella è roba da ridere. Qui si sta parlando di Robert Parish 2-16 e di Artis Gilmore che sfiorava i 2-20 di statura, 2,18, Abbiamo ricordato questo esordio al contempo, oggi non abbiamo compleanni o quasi, perché mi voglio informare meglio, ma mi pare che un altro big man, un po' più piccolino, un 2,13, Brad Daugherty, per quanto riguarda il compleanno, mi pare che per questo atleta che ha delle caratteristiche anche lui molto attinenti, e non solo per il ruolo, ma anche per il cambiamento, perché Brad Daugherty, secondo me, sarà l'ultimo vero centro da considerarsi in tale ruolo. Ok, Shaquille O'Neal, sì, se vogliamo, certo, decisamente importante, ci mancherebbe, ma per quanto riguarda un aspetto tecnico, un aspetto cestistico, una raffinatezza e non solo fisica, le mani di Brad Daugherty per me restano comunque un esempio fondamentale come ultimo centro esistente nel periodo di normalizzazione cestistica. Poi pian piano il ruolo del pivot, la pallacanestro era riconosciuta, no? Si diceva è il ruolo del pivot, ok, le ali che magari anche calcisticamente parlando c'era, non dico un'attinenza ma un'omonimia nel ruolo. Poi il pivot, l'asse pivot playmaker era qualcosa di fondamentale. Questa situazione è completamente smarrita, ne ha perso tanto la bellezza del gioco e anche la situazione di eterogeneità tra i ruoli. Beh, allora iniziamo anche e parleremo anche di quella che è una difficoltà, e non solamente per tutto quello che troviamo sul campo da basket. Molte volte si facevano allenamenti differenziati tra i lunghi e i piccoli, ma anche una difficoltà per questi omoni nella vita quotidiana. Prendete voi le lenzuola adatte per un letto lungo 2,30 metri, andate voi a trovare dei pantaloni, pensate sempre trovare delle scarpe se non da basket ma per uscire dal 48 in su, è mica facile, So glad you're mine, you make me glad I'm a woman, 'cause you're a feeling, thinking man, and anytime I know you're needing, I'm gonna please you every way I can, Questo brano Take Your Prize è stato campionato più volte da diversi produttori anche in tempi recenti. Apre la nostra playlist dedicata a due grandi oversize e non solamente per la stazza fisica. Parleremo delle banali prese in giro, le occhiatine, i colpi di gomito, di nascosto quando si entra nei locali, le domande stupide, no, di quello ne abbiamo già parlato, speriamo di averle accantonate perché per me è una vera e propria forma di razzismo. Parleremo delle difficoltà così a tratti per quanto riguarda la struttura e la statura, come Robert Parrish, 2,16 metri, un atleta che ha esordito nell'NBA come Artis Gilmore nell'anno che è stato citato in precedenza e che viene scelto in un draft molto particolare di cui vi parlerò, è perché non è stata una primissima scelta. Arriva a Golden State, il numero di casacca è quanto mai particolare perché lui giocherà col numero 00. Questo è un aspetto che mi ha sempre affascinato, è stato uno dei primi atleti nei famosi fine anni 70, inizio anni 80, quando arrivarono le telecronache di alcune sintesi di partite NBA, vedevi questo omone nero come l'ebano, fortissimo tecnicamente, dominante, carismatico nel suo silenzio. Il nickname è The Chief, in quanto ricordava il gigantesco indiano muto come personaggio del film Qualcuno volò sul nido del cuculo. Io penso di non averlo mai visto sorridere, Robert Parrish. Come il pane da North Carolina, quelli buoni vengono tutti da lì. Mani educate per tiro e visione di gioco e passaggio, questa la Davia veramente bene, magari non tanto fisico per ingombrare l'area, ma comunque un più che solido rimbalzista. Che dire, dopo la triade Hakeem Olajuwon, Patrick Ewing e David Robinson, Bradley si collocava al quarto posto come il miglior pivot della Lega NBA per 5-6 anni buoni, fino a quando purtroppo la schiena ha dovuto dire stop e ha dovuto quindi fare un ritiro molto molto molto presto rispetto all'età del giocatore. Se dobbiamo imparare come si gioca in pivot, Robert Parrish è praticamente l'enciclopedia del pivot. grazie per le due parole azzeccate su Brad Dougherty. Sì, poi qua parliamo anche di gusto personale, cioè per me il centro deve avere determinate caratteristiche, le rispecchiava perfettamente Dougherty, anche se lo chiamavano soft, un po' mollaccione. Beh, non era esattamente un atleta, non era esattamente neanche nell'immaginario e da vedere un centro di quelli tutti botte, rimbalzi, blocchi. Sì, certo, una presenza fisica indubbiamente, ma non era identificabile per quello, identificabile per una tecnica veramente sopraffina, per cui mi pare che adesso guardo, ma mi pare che in questi giorni abbia compiuto gli anni Brad Dougherty, e quindi l'abbiamo portato con l'attinenza del gioco da centro. Lui secondo me l'ultimo grande centro della NBA, e poi c'è stato il cambiamento e il ruolo passò insomma a un aspetto, è sparito, è inutile che sto a girarci intorno, è sparito. Buongiorno Lino. Il 19 ottobre è nato Brad Dougherty, quindi auguri, qualche giorno fa. Arriva a Golden State, è una settima scelta. Prima di lui quell'anno nel draft viene scelto John Lucas, un piccolo, un playmaker con importanti problemi personali, e lui è stato anche sospeso per droga dalla Lega, un playmaker mancino, un playmaker molto molto molto dotato, anche realizzatore, capace, gran visione di gioco, purtroppo cade nel vortice della droga, si riprende, lo prendono come si dice per i capelli, ecco, lui a Houston poi avrà motivo di giocare anche finali NBA in maniera importante contro i miei Boston Celtics, e l'anno di John Lucas è anche l'anno, mi pare, di uscita di Robert Parrish, e oltretutto quell'anno è stato prima di Robert Parrish, sono stati scelti come seconda scelta Scott May, giocatore fenomenale che abbiamo visto anche a Torino, è stato scelto prima di lui come centro Leon Douglas. Ma io penso di aver intuito perché hanno sottovalutato questo atleta, che sarà, secondo parere mio personale, secondo solo negli anni di grande rivoluzione cestistica a Karim Abdul-Jabbar, sarà l'unico a portare veramente filo da torcere al più grande centro di tutti i tempi, con tutto il rispetto per Moses Malone, giocatore eccezionale. Appunto, gusto personale, ma non perché giocasse a Boston, ma se devo scegliere tra i due. Avremo attinenze tra Gilmore e Moses Malone dopo, perché parleremo anche di ABA. Robert Parrish non l'abbiamo mai visto sorridere. Robert Parrish era l'unico giocatore che durante gli allenamenti o diciamo così in spogliatoio ricordano i compagni di squadra: oh, guarda un po', era l'unico che non veniva mai preso in giro o non dico bullizzato perché è una brutta parola, però non veniva mai così preso in giro, dai, da Larry Bird. Larry Bird ne aveva per tutti da dire, da ridire, da criticare. Oh, con Robert Parrish niente. Ricordi il leone, scrive, si pensa, è stato scelto prima di Robert Parrish, Leon Douglas. Io l'ho un po' la chiave di comprensione di questo, cerco di sforzarmi, ma da appassionato, mi permetto, per quell'epoca anche competente. E Robert Parrish non era, così se uno lo guarda nell'immediato, un giocatore atletico, non era un giocatore, lui veramente non era un saltatore, non era un esempio di reattività, però sempre riguardo agli aspetti atletici hanno sottovalutato una cosa fondamentale, lui unico in questo, e penso che sia stata veramente la caratteristica che ha dato quel motivo in più. Cioè, per certi aspetti, adesso io non faccio del... ma ci mancherebbe, però le caratteristiche allora più definite. E era un centro più, per certi aspetti, bianco. Ad esempio, lui era coordinatissimo nei movimenti. Stiamo parlando di un 2-16, attenzione. Una delle leggi, uno dei comandamenti che danno agli esterni: mai passare la palla a un lungo in corsa. Ecco. C'è un'eccezione che conferma la regola. A Robert Parrish potevi passare la palla in corsa. Un giocatore, nonostante la statura, coordinatissimo. Poi certo non un saltatore, non reattivissimo, ma potevi tranquillamente passare la palla in corsa. Aggiungiamo un'intelligenza cestistica, un'abnegazione per il lavoro, la velocità. Un lungo che raggiungeva il campo da parte a parte, veramente copriva gli spazi in maniera eccezionale. E per quello che dico, caratteristiche non esattamente da colored, e aggiungo anche, per dare un corollario a questi aspetti, anche una mano educatissima, una mano da 4-5 metri, lì sai, quando parte un tiro da quell'altezza è difficile da fermare. Tra l'altro, grande stoppatore, la presenza a ribasso, è stato per i Boston Celtics un giocatore fondamentale. Non sarà certamente Robert Parrish, no, ma per chi tifa Fortitudo se l'è goduto ampiamente. Giocatore sublime. Esattamente, Willy. Non si è mai fatto mettere in piedi in testa neanche dalle leggende del basket. Ricordiamo che lui, ultra quarantenne, approda anche ai Bulls, dove vinse anche un titolo, e disse: Jordan, tu stai al tuo posto, io non sono i tuoi compagni di sempre con cui ha giocato. sono d'accordo, Willy, magari non era, diciamo, non rubava l'occhio atleticamente, ma difatti venne anche a fare dei tournée estivi in Italia per vedere se poteva trovare squadra anche nel vecchio continente, ma Robert Parrish mentì come al solito tutti e si rivelò poi uno dei migliori pivot della storia della Lega NBA. Altra caratteristica che mi fa coraggio perché la longevità. Allora, Robert Parrish adesso ha giocato 22 anni, adesso non ricordo, guarderò, ma è il giocatore insieme a Kevin Willis, ok, ma si parla veramente di sgoccioli, è il giocatore che ha giocato più tempo nella NBA di sempre, è considerato uno dei 50 migliori giocatori di tutti i tempi e potrei aggiungere anche altre caratteristiche come ad esempio un palmarès di tutto riguardo. Beh, certo, uno dice giocava con Boston, però ha portato un anello anche con i Chicago Bulls. E da lì la famosa frase con disse a Michael Jordan: guarda, non hai capito con chi hai a che fare, tu stai al tuo posto, che tu cinno sta ban. Grande acume, con questo concludo la prima parte del Mood Room. Lì veramente abbiamo parlato con Dave Debuscher dell'importanza anche dei general manager, di chi aveva la gestione della squadra. Pensate a Red Auerbach dei Boston Celtics, avere il coraggio di capire la fine di un'epoca e rilanciarsi con due figure, tra cui appunto Kevin McHale, ma anche con Robert Parrish, che è andato a comporre il trittico Larry Bird, Kevin McHale, Robert Parrish, che per quanto riguarda il front court, cioè alla piccola, alla grande e centro, beh, direi che qui siamo tutti d'accordo in maniera unanime. Chissà con che automobile si spostava nella sua vita privata, perché io me le chiedo queste cose, salutando anche un mio compagno di squadra che abbiamo avuto come ospite al Mood Groove, Tonino Fus, di 2,22 m, e io vedevo insomma ulteriormente queste difficoltà. Prima citavo delle cose che non sono, per così dire, nell'immediato, no? Ma poi pensandoci, accidenti con questa stazza, è un problema ogni cosa. Il mondo è dei piccoli, dai, diciamo, come va detto, il mondo è dei piccoli. E noi andiamo in pubblicità, rientriamo tra poco, abbiamo Artis Gilmore, Take the A-Train, e sarà il prossimo protagonista, proprio ricordando i loro momenti di esordio per una splendida carriera all'interno della NBA, ma non solo per quanto riguarda Artis Gilmore. A tra poco. La maglietta che copre, la cosiddetta maglietta della salute, io la porto sempre, costantemente, anche d'estate, sono un freddolone per natura, quindi io ricordo a Tonino arrivava all'ombelico, ma di solito quella maglietta serve per proteggere la parte lombare, serve a proteggere la parte più esposta della schiena. È un altro problema trovare delle shirt così lunghe. Questo Mood Groove dedicato a due giganti che hanno esordito nella stessa annata. Beh, Artis ha esordito prima, l'esordio nella NBA è stato lo stesso, ma nel 1971 Artis Gilmore ha fatto parte, sceglie di andare a giocare nella ABA, di cui vi abbiamo già parlato. Sempre bello parlare della ABA, più notizie riesco a raccogliere più mi affascina questa lega incentrata sulla spettacolarità e su un gioco, non voglio dire più libero, però insomma che dava un'attenzione a talenti più esuberanti, ecco, più originali. Del resto George Gervin, Julius Irving escono appunto dalla ABA. Viene scelto, ma con il numero, mi sembra totale, con numero 70, pensate, al settimo giro Artis Gilmore sceglierà di andare a giocare nella ABA, dove andrà nei Kentucky Colonels, con i quali vincerà anche un titolo. Ma quello che vi aggiungo di Artis Gilmore è che nella ABA non c'era storia, cioè lui è stato miglior rimbalzista, miglior realizzatore, miglior per quanto riguarda la percentuale di tiro, miglior rimbalzista, l'ho già detto, miglior stoppatore, giocatore MVP della Lega per diversi anni, insomma ha veramente un palmarès nella ABA di atleta dominante. Gioca 5 All-Star Game in quella lega, 4 volte miglior rimbalzista, 2 volte migliore nella percentuale di tiro, insomma è oltretutto presente costantemente nel miglior quintetto di stagione. Artis Gilmore, se vogliamo trovare veramente, spaccare il cappello in quattro, era più uomo d'area di Robert Parrish. Ecco, io Gilmore sicuramente, anche lui per i suoi 2,18 m, un'agilità particolare, ma allo stesso tempo una presenza più vicina al gioco, spalle a canestro. Ecco, per quanto riguarda questo aspetto, se vogliamo, più uomo d'area in avvicinamento, rimbalzo offensivo, gancio, semigancio, finta, passo e tiro. Beh, giocatore per questo immarcabile totalmente. Allora, la Lega ABA cessa di esistere, è il 1976. Alcuni giocatori vengono inseriti in un draft particolare, si chiamerà il draft dei dispersi. Alcune squadre passeranno quelle che ne hanno la caratteristica, ne cito qualcuna, i San Antonio Spurs, i Denver Nuggets, verranno passate nella NBA. Quelle che non hanno le caratteristiche di franchigia vengono sciolte. I Kentucky Colonels saranno fra quelle, e i giocatori a fine contratto oppure facenti parte di quelle squadre che però hanno, per così dire, l'attenzione dei general manager della NBA vengono inseriti in un draft particolare, il draft chiamato dei dispersi. La prima scelta di questi dispersi, ve ne citerò qualcuno, sarà Artis Gilmore, e guarda un po'. Seconda scelta, Maurice Lucas alla forte. La quarta scelta, Bad News, cattive notizie, Marvin Barnes. Moses Malone sarà semplicemente quinta scelta, Voluto voluto portare le note di Melvin Sparks. Gran parte di carriera Artis Gilmore nella NBA la farà a San Antonio, nel Texas. Melvin Sparks, chitarrista tra l'altro forte, con queste particolarità. Adesso stiamo ascoltando una parte del brano all'organo Hammond B3. Adesso lancio un brano dove la presenza della chitarra di Melvin Sparks magari sarà più incisiva. Sì, allo stesso modo come l'atleta che stiamo descrivendo, con delle caratteristiche di forza non indifferenti e di presenza per quanto riguarda l'essere il cosiddetto uomo d'area. Diciamo, facendo un po' di gavetta come backup del grande Clifford Ray, ecco, Artis Gilmore arrivò in NBA dopo che aveva stradominati nei NBA facendo in setta di trofei e titoli. Arriva come stella acclamata, infatti debutto, 21 punti, 18 rimbalzi, e la gente inizia a guardarsi un po' intorno e dice: signori, abbiamo trovato l'antagonista di Kareem Abdul-Jabbar. Aveva stazze centimetri, oltre che un atletismo veramente fuori dal comune, diventando veramente uno spauracchio al centro dell'area. E aggiungo io, una signorilità, una professionalità. Quando si parla di grandi professionisti, dei signori. E anche i problemi che creiamo noi alti, quando si parla viso a viso, a distanza ravvicinata, è vero che c'è un certo fastidio al collo, perché l'ho provato con Artis Gilmore. Venne a Bologna, si spostava con, praticamente bisognava chiamare un muletto della CESAB per spostarlo da parte a parte del campo, perché ormai era fine carriera. Ma ricordiamo, quando vedi questi personaggi, basta solo che abbiano un movimento e tu dici sì, ok, ciao. Questo brano, con la forza e allo stesso tempo la grande raffinatezza delle corde di Melvin Sparks, è di solito abbino musica a personaggi, artisti, cestisti. Ecco, Melvin Sparks, Artis Gilmore, direi proprio che è l'abbinamento che come colonna sonora ci sta. Comuna Robert Parrish, una presenza prima importante a Chicago, e anche Parrish negli ultimi anni della sua carriera andrà a Chicago, ma l'ultimo anno che Artis Gilmore fece in NBA prima di arrivare in Italia lo fece con i Boston Celtics. Ovviamente era centro di terza linea, ormai già fatto, insomma, non un ragazzino, ecco. Per il loro esordio di questi due atleti, per Gilmore soprannominato The E-Train, ricordando anche il brano di Duke Ellington, ma soprattutto a me piaceva di più come Gentle Giant, il gigante gentile. Ho questo vizio, che poi per me non è un vizio, non mi infastidisce. Ah, quelli che quando parlano ti toccano. Vabbè, c'è modo e modo di toccare, dai, su, non fatemi dire delle brutte cose. Sì, ho questo di toccare l'avambraccio, no? Quando sei d'accordo con una persona che ti sta particolarmente, così, con la quale c'è un'affinità. intanto che parli, prendi, sì, hai ragione, prendi l'avambraccio. Ecco, questa è una caratteristica che ho, ma quelli che toccano, mamma. Sociopatici. Io infatti ho avuto un episodio del genere con Artis Gilmore. Allora, a me è sembrato di toccare un profilato d'acciaio, eh. A me personalmente è rimasto questo ricordo di Artis Gilmore, che per dare segno di approvazione a una sua affermazione ho preso l'avambraccio e sembrava di toccare un profilato d'acciaio. Di oggi con Robert Parrish, Artis Gilmore, uomini di grande stazza, beh, di professionalità, di talento e di signorinità, oltre che grandissimi giocatori e le difficoltà di statura. E noi ci salutiamo e diamo appuntamento a domani con il Voltiamo Pagina, sempre su Radio Città Fujiko. Ricordo, dalle 10.30 alle 12.30 i due vinili della settimana, curati e condotti da Andrea Gozza. Vi ringrazio per l'attenzione, ringrazio Paolo Onofri per la co-conduzione da remoto. Domani Breakfast Club arriverà alle ore 7 con il Voltiamo Pagina. Un buon imprevedibile martedì, ma che sia imprevedibile di belle cose, dal vostro William Piana, che si congeda a voi con un caloroso abbraccio. Ciao a tutte, ciao a tutti, a domani.